12 minuti. Il lavoro al tempo del non lavoro. A cura dell'Informa Giovani di Mestre Venezia. Bentrovati, io sono Giovanna e vi do il benvenuto a 12 minuti, il lavoro al tempo del non lavoro. Come vi avevo anticipato la scorsa settimana, oggi parliamo di lavoro alla pari. In questa puntata quindi cercheremo di capire di cosa si tratta, chi vi può accedere e come poter appunto intraprendere un'esperienza di questo tipo. Lo faremo insieme ad una graditissima ospite che torna a trovarci, Sara Tognon, esperta di mobilità internazionale, e inoltre avremo con noi Giorgia, che ha provato in prima persona il lavoro alla pari, che quindi ci racconterà com'è andata. Per prima cosa, che significa lavorare alla pari? Ci siamo un po' informati e sostanzialmente si tratta di trascorrere un periodo all'interno di una famiglia straniera, aiutando in casa, magari accudendo bambini o svolgendo piccole faccende domestiche, in cambio di vitto, alloggio ed una piccola retribuzione. È sicuramente un buon modo per conoscere il paese in cui ci si trasferisce ed è anche sicuramente un buon modo per imparare una lingua straniera, che è infatti una delle motivazioni più frequenti per le quali un giovane si interessa al lavoro alla pari. Questo tipo di esperienza, che è regolamentata dall'accordo di Strasburgo, si può fare praticamente ovunque nel mondo, ma i paesi più gettonati sono Gran Bretagna, Francia, Stati Uniti e gli stati del Nord Europa come Irlanda, Paesi Bassi, Danimarca, Finlandia e Svezia. 12 minuti. Il lavoro al tempo del non lavoro. E ora cerchiamo di capire meglio come funziona il lavoro alla pari e diamo il bentornata a Sara Tognon, esperta di mobilità internazionale. Ciao Sara, bentornata a 12 minuti. Ciao Giovanna, ciao. Sara, come funziona esattamente il lavoro alla pari e qual è quindi il tipo di impegno richiesto? Allora, come avevi già accennato tu prima, ovviamente l'au pair è la sistemazione in famiglia da parte di un ragazzo o di una ragazza e in cambio di un po' di babysitting e un po' di aiuto in casa alla pari di un fratello o di una sorella maggiore. Poi ovviamente il tipo di impegno viene concordato sempre con la famiglia, però ci possono essere almeno 4 tipi di lavoro alla pari, quindi il tradizionale, che prevede un impegno di 5 ore al giorno, 2 o 3 sere di babysitting e poi questo prevede 2 o 3 pomeriggi liberi o 3 o 4 sere libere. Il semipari, che invece è un impegno un pochino più ridotto, per cui prevede 3 ore al giorno, 2 o 3 sere di babysitting e poi il resto del tempo è libero. E il pari più, invece, che prevede 40 ore settimanali e 2 o 3 sere di babysitting, e l'aiuto madre, che invece è una cosa molto più consistente, che quindi prevede 50 ore settimanali e 2 o 3 sere di babysitting. All'inizio della puntata, Sara, abbiamo detto che è prevista una piccola retribuzione. Ecco, come funziona questo aspetto e quali sono quindi le condizioni di svolgimento esatte del lavoro alla pari? Sì, allora, oltre appunto al vitto e all'alloggio, la famiglia normalmente dà all'au pair questa retribuzione, che può andare da 60 a 120 euro settimanali all'incirca. Chiaramente dipende dal tipo di impegno poi che l'au pair ha, quindi secondo le modalità che abbiamo appena detto. E le condizioni economiche per quanto riguarda invece il partecipante sono di autospesarsi di viaggio e del corso di lingua se necessario, però poi fa sempre fede ovviamente l'accordo con la famiglia, nel senso che ci sono paesi come gli Stati Uniti per esempio dove sia il viaggio, il volo aereo che il corso di lingua vengono offerti invece in questo caso all'au pair. Diciamo che normalmente queste sono le condizioni, però poi viene tutto specificato nell'accordo che si va a firmare. Ecco Sara, quanto può durare poi effettivamente l'esperienza di lavoro alla pari? Allora, l'esperienza può durare dai 3 ai 12 mesi, anche se normalmente si sta più verso i 12, quindi è pensata per essere un'esperienza abbastanza lunga, anche perché avendo poi a che fare con i bambini c'è bisogno di instaurare un legame ed un rapporto e quindi già che la persona è straniera si farà fatica nei primi mesi, quindi normalmente sono 12. Poi però è possibile trovare un'esperienza che va dai 3 ai 6 mesi, soprattutto nel periodo estivo, quindi aiutando la famiglia e nei mesi in cui magari sono maggiormente scoperti per i turni, per chi lavora, insomma, per il periodo estivo. Ecco, Sara, proprio per la tipologia del lavoro, appunto, di aiuto in casa sostanzialmente, di seguire i bambini, ci vogliono dei requisiti specifici? Sì, allora abbiamo il primo requisito è quello del sesso. Non è assolutamente vietato a un ragazzo fare questo tipo di esperienza, ma normalmente sono più ben accette, sono più ben volute le ragazze, perché le famiglie chiaramente preferiscono lasciare i bambini ad una donna piuttosto che ad un uomo. Però appunto non ci sono veti tassativi se non in Svizzera, per cui la Svizzera invece è un paese particolare per cui richiede au pair solo di sesso femminile. Invece un altro requisito è l'età, nel senso che l'età va dai 17 ai 30 anni, normalmente 17-18 diciamo ai 30, una conoscenza basica della lingua del paese ospitante e possibilmente precedenti esperienze con i bambini. Sara, un'ultima domanda: come si può trovare una famiglia disponibile ad accogliere un giovane alla pari? Allora, sono due i modi fondamentalmente, quindi uno è quello di appoggiarsi ad un'agenzia che dietro un compenso ovviamente incrocia la nostra domanda con l'offerta della famiglia, e l'altro è quello invece di cercare gli annunci delle famiglie all'interno di alcuni portali internet. Sara, grazie per essere stata nuovamente qui con noi e per le informazioni sempre importanti e precise. Grazie a voi. E ora ci fermiamo per un breve intervallo musicale, poi ritorniamo qui con Giorgia che ci racconterà la sua esperienza diretta di lavoro alla pari. Che cosa ti aspetti da noi? Chissà se ci pensi mai. Lo sai che anche il mare più blu poi nasconde scogli. C'è da correre per rimanere dove siamo. Perfetta così questa nostra stagione di giorni insieme ad esplorare noi. È perfetta così, ma non c'è vero amore che non abbia bisogno di un po' di cure. Per diventare quel che siamo. Perfetta così questa nostra stagione di vita insieme a innamorare noi. È perfetta così, ma non c'è vero amore che non abbia bisogno di un po' di cure. Guarda in quanti corrono spingendo il freno e non riescono più a prendersi la mano. Fermi tra abitudini e speranze vane. Se non ami l'amore, poco niente alla fine di me. Perfetta così, ma non c'è vero amore che non abbia bisogno di un po' di cure. Stupenda così questa nostra stagione di vita insieme a raccontarci noi. Perfetta così, ma non c'è di un po' di cure, le nostre paure. 12 minuti, il lavoro al tempo del non lavoro. Bentornati a 12 minuti, stiamo parlando di lavoro alla pari e nella prima parte della puntata Sara Tognon, esperta di mobilità internazionale, ci ha spiegato esattamente di cosa si tratta, come vi si accede e quali sono i requisiti richiesti. Ora sentiremo cosa ci racconta chi questa esperienza l'ha fatta e diamo quindi il benvenuto a Giorgia. Ciao Giorgia, benvenuta a 12 minuti. Ciao Giovanna. Giorgia, dove sei stata e quanto tempo sei rimasta? Allora, io sono stata a Londra nel 2010 dopo essermi laureata alla facoltà di interpreti di CS e sono stata per 2 mesi nel periodo estivo tra luglio e agosto. Ecco Giorgia, come hai trovato la famiglia che ti ha ospitato e come ti sei trovata? Allora, io ho fatto un po' una ricerca in internet e alla fine ho scelto di affidarmi a un sito che è openworld.net e tramite loro ho avuto l'occasione appunto di essere ospitata da questa famiglia che era composta da i 2 genitori e 2 bimbi di 6 e 10 anni e mi sono trovata molto bene, anzi assolutamente direi che la relazione che siamo riusciti a creare mi ha facilitato poi la permanenza lì. Giorgia, il lavoro alla pari è sicuramente un buon modo per imparare una lingua straniera ed è infatti anche una delle motivazioni più gettonate per cui un giovane prova questa esperienza. Per te è stato così? Hai avuto magari anche la possibilità di frequentare lì dei corsi e se sì la famiglia ti ha agevolato in qualche modo, ti ha aiutata? Allora, io sono arrivata che conoscevo già la lingua, appunto essendomi laureata in inglese e spagnolo, e ho frequentato un brevissimo corso solamente all'inizio che sì, la famiglia mi aveva suggerito alcune scuole insomma a cui potevo provare a chiedere che cosa organizzavano e ho fatto questo corso molto breve. L'intento con cui io sono andata là era proprio quello di cercare di migliorare la conoscenza soprattutto della pronuncia della lingua e quindi la famiglia sì, mi è stata d'aiuto in questo, mi ha sostenuta. Ecco, per quanto riguarda la retribuzione, le tue condizioni economiche che ti sono, quello che ti è stato offerto insomma, cosa è stato? Sì, la famiglia mi dava appunto il vitto e l'alloggio e in più un pocket money di circa £80 a settimana, mi pare di ricordare. Ok, Giorgia, un'ultima domanda, che cosa ti ha dato questa esperienza e la consiglieresti? Allora sì, la consiglierei assolutamente, e un miglioramento di sicuro della mia pronuncia linguistica e dal punto di vista umano la possibilità insomma di conoscere realmente come si vive a Londra da famiglia e essere quindi integrata all'interno insomma della loro struttura sociale. Giorgia, io ti ringrazio per essere stata qui con noi e per averci raccontato la tua esperienza. Grazie mille a voi, buon lavoro, ciao. 12 minuti. A cura dell'Informa Giovani di Mestre Venezia. Per chi volesse avere tutte le informazioni che abbiamo dato durante la puntata, può visitare il sito dell'Informa Giovani di Mestre Venezia all'indirizzo www.veneziagiovane.info e alla sezione Europa Mondo, alla voce Lavorare all'estero, scaricare il documento informativo sul lavoro alla pari. Nel documento potete trovare anche l'accordo di Strasburgo che regola appunto il lavoro alla pari. Mi raccomando, quando firmate il contratto con la famiglia che vi ospiterà, controllate che siano rispettati tutti gli articoli. Nel documento trovate anche un elenco di agenzie italiane ed estere che si occupano di incrociare le domande delle famiglie con le candidature dei giovani interessati e anche indicazione di siti dove poter trovare annunci di famiglie. Vi segnalo già alcuni di questi riferimenti. Tra le agenzie italiane del nostro territorio regionale potete contattare CCE, Conoscere e Capire l'Europa di Verona al sito www.associazioneculturale-cce.it o scrivendo a europe@iol.it per esperienze in Germania, Gran Bretagna, Irlanda. È prevista una quota di iscrizione di €30 e un versamento di €140 per la partecipazione. Se volete invece fare una ricerca libera sui portali che inseriscono annunci di famiglie, vi segnalo www.oper-online.com, un sito multilingue che si propone di agevolare gli scambi di informazioni tra i ragazzi che si offrono alla pari e le famiglie famiglie che cercano in tutto il mondo. www.au-pair-world.net, che è la banca dati online per lavori alla pari più famosa del mondo e in cui è possibile contattare direttamente un giovane o una famiglia in qualsiasi paese. Infine vi segnalo il sito www.au-pair-search.com per iscriversi come giovane alla pari, come famiglia ospitante o come agenzia per giovani alla pari in qualsiasi parte del mondo e cercare la controparte più adatta. Troverete consigli su permessi di lavoro e lettere di presentazione, un forum di discussione e informazioni sulle tariffe aeree. E ora, prima di salutarvi, anticipazione sulla prossima puntata, che sarà dedicata all'Erasmus per giovani imprenditori. Per chi ha in mente quindi di avviare un'attività in proprio, magari anche orientata al mercato internazionale, mi raccomando, non perdetevi il prossimo appuntamento. E per oggi è tutto, ci sentiamo la prossima settimana, bye bye! Dodici minuti. Il lavoro al tempo del non lavoro. A cura dell'Informa Giovani di Mestre Venezia.